Blue Time. Blue Time. Blue Time. Eccoci qui questo mercoledì 7 agosto 2013. Buonasera a tutti da Blu Radio Veneto. Buonasera Maurizio Calzavara. Buonasera Gil, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Eccoci qui questa sera per una nuova puntata, in diretta telefonica. E questa volta andiamo in Puglia, e dare il benvenuto tra gli amici di Blu Radio Veneto a Luca Loizzi. Ciao Luca. Ciao Gil, ciao a tutti voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Blu Veneto. Un ciao Luca. Con voi. E c'è anche Maurizio qui con noi. Ciao Maurizio. Ciao Luca, ciao Luca. Ecco, allora diciamo, facciamo una brevissima parentesi e poi entriamo nel vivo. Questa sera Luca sarà con noi per presentare questo album d'esordio che si chiama proprio Luca Loizzi ed è prodotto dalla Tarok Records. Luca, tu sei pugliese, ma questa sera sei a Milano. Lo diciamo per un'occasione speciale, lo vogliamo dire? Sì, una sorta di carrambata, nel senso che è nato mio nipote, il figlio di mio fratello, e quindi ho fatto un salto a Milano proprio per venire a godere di questa conoscenza e sono felicissimo e orgogliosissimo, insomma. Sono diventato zio di fresco e non posso essere che felice. Bene, auguri alla signora allora, a tua cognata praticamente. Certamente. Come si chiama? E il nome è un po' particolare, Libero. Ah, bene. Bellissimo. Assolutamente. Magnifico. È un nome che parla, già di per sé, un nome parlante, esatto. Però... Sicuramente tu ne sei felicissimo come nome. Sì. Ascolta, volevo ringraziare, scusami Maurizio, vai. Paolo Tocco della Proto Sound, perché tramite lui siamo riusciti a contattare Luca e permettere questa intervista. Vai Maurizio. Sì, caro Luca, tu sei a Milano adesso, ma sei stato molto tempo a Milano, il vecchione pugliese possiamo dire, vecchioni pugliese, tu sei vecchione di Milano, insegnava in una scuola di Milano, adesso mi pare che sei in pensione, e tu hai insegnato per parecchi anni a Milano e poi ti trasferito, sei ritornato in Puglia. Hai insegnato le materie che insegnava Vecchioni, o no? O quasi? Sì, io sono lusingato per il confronto, diciamo, col maestro Minchino, ecco, non posso fare altro. E tra l'altro sono sempre stato un suo grandissimo fan. Quindi, e sì, in realtà è vero, io ho vissuto 10 anni a Milano e perché mi sono trasferito nel 2002 proprio per lavorare come insegnante di lettere classiche. Esattamente. Italiano, latino, greco, eccetera. E poi praticamente la vita ha voluto che ritornassi nella mia amatissima Puglia e di lì l'incontro, il rincontro con Beppe, appunto, Beppe Massara della Tarok Records, con Nico Acquaviva, e l'idea di portare avanti questo progetto, parallelamente alla mia... La tua professione. Tra virgolette, ecco, altra professione, altra carriera. Che adoro parallelamente alla mia, diciamo, artistica, perché amo il rapporto continuo con i ragazzi, come amo il rapporto continuo poi col pubblico quando portiamo dal vivo i nostri pezzi. Diciamo, sono due situazioni parallele. Certo. Parallele importanti nella mia vita entrambe, sì. Tra l'altro con Beppe Massara e Nico Acquaviva è un rapporto veramente speciale, no? Sì, ti raccontavo che in sostanza siamo come una grande famiglia, abbiamo lavorato gomito a gomito in questo anno e mezzo, poco più, in cui abbiamo costruito, insomma, il progetto che, insomma, ci ha dato, come si suol dire, tante belle soddisfazioni, ognuno con le proprie competenze, con le proprie passioni, un team affiatatissimo che ha prodotto, insomma, questo bel risultato, ecco, diciamo, ecco. Almeno per noi, poi il pubblico decreta e decreterà, insomma. Sì, ma sicuramente un bel risultato. Tu che sei partito da Brel, da Brassens, ti sei intrufolato anche con Giorgio Gaber e Nanni Svampa, cioè l'ironia, non soltanto il cantautorato, ma anche l'ironia, il gusto dell'ironico. Sì, io ho sempre amato e continuerò a farlo i grandi poeti come De André, come De Gregori. Però a fianco a loro ho sempre pensato che, almeno per quanto riguardasse la mia indole, fossi più vicino, più portato a raccontare la realtà con l'ironia di altri grandi maestri come Giorgio Gaber, come Piero Ciampi. Sì, esatto. Esatto, soprattutto Piero Ciampi, che è stato a lungo dimenticato, esatto, poi nell'oblio. Finalmente torna, torna a vivere mediante, grazie a voi, grazie al nuovo cantautorato. È una cosa positiva, assolutamente positiva. Piero Ciampi è stato un diverso musicalmente parlando, era sempre lontano da certi schemi, da certi palchi, volutamente lontano. Poi grazie a voi, grazie a Nada soprattutto, è stata la prima in assoluto. Sì, sì, e poi avevano avuto una collaborazione insieme, da lì insomma questo rapporto. Lei racconta sempre di Ciampi, perché le ha, tra virgolette, in senso positivo segnato, insomma. Sono di Livorno, vita, tutti e due, sono di Livorno. Esatto. Sì, sì, sì. Non è poco. Non è poco, esattamente. E poi, come citavi giustamente Nanni Svampa, ho fatto un percorso dall'Italia indietro verso la Francia, riscoprendo i grandi cantautori, non solo i nomi che conosciamo, che forse appartengono più ad altre generazioni come Aznavour o Brel, ma anche quel Brassens che è appunto è stato sempre maestro di ironia, semplicemente con la chitarra e le sue bellissime rime. Certo. Tra l'altro tradotto in molti casi da Di André Sesto. Esattamente, insomma, esattamente. Allora Luca, io direi di introdurre la prima canzone di questo tuo album, che è Quando meno te lo aspetti. Vuoi dire due parole velocissime su questo brano? Sì, diciamo è una delle canzoni alle quali sono più affezionato, perché è in parte parecchio autobiografica, però quando cerca di raccontare anche un po' il nostro paese, insomma. Scusa Maurizio, mi entri dentro. Pardon, ma... Ed è stato anche il nostro primo singolo, quindi diciamo è stata l'ariete con cui abbiamo sfondato, metaforicamente parlando, le mura del suono, insomma. E quindi c'è un legame molto forte con questo brano. Bene, allora ascoltiamoci Quando meno te lo aspetti, Luca Loizzi. E quando meno te lo aspetti, che ti cascano le guance mentre guardi dal balcone, si arrivano l'estate, tutti quanti sono pronti a dirti cosa fare, tutti quanti sono pronti prima ancora di parlare. Quando sembra così strano non avere più nessuno e sentirsi così soli, quasi fosse uno spergiuro, e svegliarsi ogni mattina con un giudice sotto il letto pronto a venderti per poco, sì, ma con tutto il suo rispetto. Quando piove così forte che non trovi più la strada e vorresti rotolarti per tornare presto a casa, tra gli sguardi della gente che ti crede un delinquente, ti nascondi con le mani per non sembrare deficiente. Se ti chiedono dov'eri quando è morto il presidente, stai attento a non mentire, a non sembrare reticente, che l'Italia fa paura e potresti ritrovarti a volare all'improvviso dalla finestra di una questura. Nel frattempo cosa ho fatto? Ho messo il cuore in frigo come fosse marmellata, ma le formiche sanno tutto, e i geologi dell'anima, pessimisti di quartiere, ottimisti di professione, che mi spingono al dovere. Faccio lo splendido ogni giorno con le donne che non amo e mi sveglio io sempre solo in questo letto solitario. Ma da giugno cambia tutto, te lo giuro, lo prometto. Ce ne andiamo via da tutto senza destare alcun sospetto. Senti? Rieccoci in diretta, quindi Luca, quando meno te lo aspetti, era il singolo che ha lanciato questo, questo tuo album, Luca Loizzi. Sì, e il primo pezzo che è uscito a maggio sostanzialmente per promuovere l'album e che, come ti raccontavo prima, riassume un po' della mia storia recente, dei miei anni, un po' anche dei miei anni milanesi e in più... L'idea è quella anche di cercare di raccontare l'Italia, che come sappiamo ha le sue storie e si intrecciano sempre con le nostre, insomma. Certo. Vogliamo ricordare anche chi ti accompagna in questa tua avventura. Oltre alla tua voce abbiamo altri cantanti, altri musicisti, scusami Luca. Sì, diciamo che in questi due anni ho avuto la fortuna e il piacere di collaborare con ottimi musicisti, cominciare da quelli che hanno lavorato per il disco come Walter Forestiere, Alessio Campanozzi e poi al momento sto collaborando con Nick Secci alla chitarra, con Dino Massaro alla batteria e le percussioni, Camillo Pace che è un altro bravissimo cantautore pugliese che mi accompagna al contrabbasso nelle nostre serate, diciamo, musicali. Quindi è stato un grandissimo piacere tornare in Puglia e trovare, ecco, l'abbraccio di tanti musicisti e poter collaborare sempre con persone nuove. Ecco. Certo, però tutti questi musicisti però non riescono ad accompagnarti nel palco. Sì, diciamo che la nostra formazione è di solito o quartetto o quintetto. Contrabbasso, batterie, percussioni, chitarra, la mia, e poi Nick l'altra chitarra, e quando c'è si aggiunge un altro strumentista solista, quasi, diciamo, per rendere, ecco, l'album, che è ricchissimo di suoni, la fisarmonica, eccetera, con la possibilità di collaborazioni sempre nuove. Luca, questo è il pezzo, che è il singolo che apre l'album, e si intrecciano due cose. Una cosa fondamentale, l'amore per il folk nostrano stavolta. Cosa dici, Luca? Beh, sì, io diciamo che sono cresciuto ascoltando anche i Modena City Rambler. Sì, certo. E ascoltare il nostro folk, che poi si intrecciava anche con quello irlandese, diciamo. E devo dire la verità che una delle mie passioni, non mi vergogno a dirlo perché, come si suol dire, meglio tardi che mai, una delle mie passioni più recenti, parlo di questi ultimi 6-7 anni, è Bob Dylan, che ho scoperto in tarda età, tra virgolette, insomma, e mi ha aperto davvero un mondo che conoscevo poco, perché io sono sempre stato da giovanissimo appassionato di musica inglese, no? E quindi i Beatles, il Donovan, insomma tutto quel mondo musicale degli anni 60, primi anni 70, eccetera. E Bob Dylan ho scoperto, lo ammetto, un po' in ritardo, però ecco, quelle sonorità, quel mondo mi hanno fatto innamorare subito, e credo, insomma, che in parte o in minima parte forse riaffiori anche questo Sì, il raccontare praticamente, Dylan ha sempre raccontato, narrato la realtà di un certo tipo, di un certo livello, e Luca cerca di raccontare anche lui la sua realtà, grazie con una colorazione musicale da folk, almeno in questo pezzo. Poi l'album però, cari ascoltatori di Luca, è un po' variato, giusto, eclettico, possiamo dire così, Luca? Sì, sì, diciamo che è un po' un'antologia delle mie passioni e... anche un diario, insomma. Sì, un diario, è bellissimo, sì, un diario, questo, un diario, sì, che fotografa ogni momento diverso. C'è anche lo swing, certo. C'è il manouche, sono un grande innamorato di Django Reinhardt, quindi non ci siamo dati limiti, ecco. No. E quindi abbiamo scelto di utilizzare, diciamo così, come Trade Union, la mia scrittura, poi adottando, ecco, stili musicali anche parecchio differenti tra, certo, loro. Certo, certo, i musicisti ti hanno seguito sempre splendidamente, tu li hai guidato meglio, ti sei fatto guidare, possiamo dire così? Sì, è verissimo, io non sono mai un dittatore in studio, assolutamente, perché credo che democraticamente parlando i musicisti siano fondamentali con il loro apporto e quindi mai intendere chi collabora con te come semplicemente dei sessionman, ma proprio come delle persone che portano il loro vissuto, il loro racconto, il loro modo di fare musica, e questo non può che arricchire me o gli altri cantautori, appunto, che si circondano di validissimi musicisti. Certo, certo. Senti, io volevo parlare un attimo, fare una parentesi di quel Puglia Sounds, che è una cosa veramente meravigliosa che hai ritrovato tornando in Puglia. Però vorrei partire da una frase un po' provocatoria che ho letto in una recente dichiarazione. Tu dici che la musica è un'arte, no, Luca? Sì. Però aggiungi, da noi in Italia le arti sono purtroppo intese più come intrattenimento che come cultura. Beh sì, io spesso sono in Francia, sono a Parigi per studio, per lavoro, eccetera, eccetera, e ormai sono quasi 15 anni che passo un mese o due d'estate per ascoltare, per lavorare, per studiare, per scoprire cosa offre l'Oltralpe. E devo dire la verità che anche a livello di leggi, no? La musica viene rispettata in maniera diversa, mi spiego, c'è la famosa legge in base alla quale il 50% minimo di musica francese deve essere trasmessa nelle radio, il che può sembrare, come dire, una legge che tende più a proteggere la musica nazionale, ma non vedo cosa ci sia di male, e soprattutto non capita mai di trovarsi con un musicista o un artista francese e porgli la solita domanda che invece viene posta a chi nel nostro paese si dedica all'arte, alla musica, cioè sì, ma che lavoro fai? Sì, è quello. Sì, sì, canti, sì, scrivi, sì, sì, ma come canti, che lavoro fai? Proprio perché cioè, non esiste in Inghilterra, in Francia, viene considerato un lavoro e preso quindi seriamente, considerato tale. Da noi siamo tutti quanti un po' attori, cantanti, ballerini, e quindi si dà poca importanza al lavoro, all'impegno che poi c'è dietro un lavoro serio, e si improvvisa molto nel nostro paese. Mi fermo perché altrimenti potrei diventare cattivo. Ma è stata anche un però po' una provocazione che ho fatto volutamente, perché sapevo che ti portavo poi alla fin fine in questo campo. E arrivando invece in Puglia con Puglia Sounds? Ecco, sì, è stata per me, dicevo, una scoperta entusiasmante, perché certo, ho vissuto tanti anni a Milano e probabilmente mi sono trovato forse in un decennio in cui il comune, la provincia, la regione hanno investito poco nel rivalutare, nel tenere di conto, insomma, le produzioni musicali, locali, eccetera, eccetera, a meno che non fossero di altissimo livello. Invece scendo, torno in Puglia 2 anni fa e mi rendo conto invece che c'è voglia da parte della regione, dei comuni, delle città, di sponsorizzare letteralmente produzioni nuove, produzioni giovani, locali. E per me questa è stata una grande sorpresa, perché io per primo vivevo con consapevolezza il luogo comune classico, insomma, della Puglia un po' lasciata a se stessa, del sud come lo si considera da sempre, e invece mi sono dovuto, come dire, sorpreso, mi sono meravigliato per il fatto invece che le cose stessero cambiando, le cose stanno cambiando, e quindi c'è questo progetto Puglia Sounds che permette di portare avanti idee nuove e belle nel campo non solo della musica, principalmente nella musica in questo caso, ma nelle arti in generale, cioè dare l'occasione, la possibilità, con un sovvenzionamento economico, di portare avanti dei progetti interessanti che poi hanno spazio nelle rassegne, nelle proposte appunto del circuito Piasano. Ed è in effetti in Italia un caso raro, insomma. Ragazzi, andate tutti al sud. Tutti in Puglia. Tutti in Puglia. Adesso, caro Luca, abbiamo scelto un pezzo, si chiama Tutti quelli, mi pare Gil. Sì. Tutti quelli è particolare, innanzitutto ha un testo tagliente, molto tagliente, che entra dentro senza mezze parole, e poi ti sei ispirato bellissimamente, se possiamo dire, a Fred Buscaglione, non è così, Luca? Sì, c'è Fred Buscaglione, c'è anche Iannacci. C'è anche Iannacci, Buscaglione, Iannacci, quel genere particolare di cantautorato intelligente, possiamo dire questo. Ti ringrazio, se vogliamo chiamarlo così non può che farmi piacere. E se vogliamo c'è anche Prevé, il poeta, perché sì, anche lui aveva iniziato con questa idea della lista, no? In sì, certo. Raccolta le poesie, quelli che, quindi... è un, come dire, un modo di raccontare e di raccontarsi anche in decenni diversi, insomma. Benissimo. Una fotografia del nostro paese. Certo, certo, una bella fotografia, possiamo dire. Io e Gil siamo stati molto sorpresi positivamente da tutto l'album, anche praticamente da questo pezzo, perché racconti, ma fai capire, quello è importante secondo noi. Tutti quelli. Tutti quelli che si arrogano il diritto di parlare delle cose che non hanno mai saputo fare, tutti quelli che si fanno promotore e difensore di valori quasi sempre fuori tempo, e tutti quelli che di giorno sono padri di famiglia e poi nascondono a puttane sotto il letto, e tutti quelli che la notte se la vivono alla grande sbarrellando fino a quando viene l'alba. Quelli che si sono già venduti madre e figli per avere qualche foto sui giornali, e tutti quelli che lavorano sperando di incontrare qualche vedova per farsi mantenere, e tutti quelli che si fidano pensando che i politici davvero siano quasi brava gente, e tutti quelli che domenica vestiti per la festa se ne vanno tutti in chiesa per la messa. Quelli che si comprano la vita con le rate e poi si trovano col mutuo fino al collo, e tutti quelli che finiscono per strada a cantare dopo 1400 fallimenti, e tutti quelli che si vestono da giovani avendo superato già da tempo i 50 anni, e tutti quelli che non credono alle favole e alle ferie e hanno smesso di sognare già da tempo. Tutti quelli che si illudono leggendo mille libri di capire cosa fa girare il mondo, e tutti quelli che si amano, si odiano e si lasciano per poi tornare insieme come prima. Blue Time. Blue Time. Blue Time. 21 e 22 minuti primi con Blue Radio Veneto, Gilles Facchinelli e Maurizio Calzavara con voi, ma soprattutto il nostro ospite telefonico Luca Loizzi per presentarci il suo CD che porta proprio il suo stesso nome e cognome. Luca, io direi molta scuola gaberiana nei tuoi testi, molta ironia, provocazione. Sì, Gaber, come... ho interrotto, scusami. No, vai, vai. Okay. No, dicevo, sì, Gaber è per me un esempio. E io ho un grande rammarico, che è quello di non essere riuscito a vederlo dal vivo, perché mi sono trasferito a Milano nel 2002 e lui è venuto a mancare nel 2001. Sono quegli appuntamenti mancati che purtroppo ti segnano in un certo qual modo. Certo, rivederlo nei live, dove è sempre possibile, nelle registrazioni, è veramente un insegnamento continuo, perché è sempre stato capace di essere dall'altra parte, cioè possiamo dire dalla parte del giusto, ma in senso positivo, cioè non schierandosi, ad esempio, nei celeberrimi anni 70, nei quali sarebbe stato facilissimo cavalcare l'onda, no? Di un certo modo di fare politica, di un certo modo di criticare, di fare. Invece lui, con album come Libertà Obbligatoria, con album come Polli d'Allevamento, in cui addirittura prendeva in giro i giovani omologati sessantottini, rischiando di prendersi pomodori e verdure in faccia durante i concerti, certo. Ecco, non può che portarmi a considerarlo davvero un maestro, insomma, del modo di raccontare l'Italia, sempre dal punto di vista, ecco, giusto, insomma, non voglio dire super partes, perché nei nostri tempi sembra vuole essere una sorta di qualunquismo, no? Si confonde spesso l'essere super partes con il qualunquismo. No, essere sempre l'anima critica del nostro paese, come lo era un po' Pasolini, sostanzialmente, certo. No? Certo. A proposito di Gaber, noi abbiamo avuto la graditissima ospite, che è Anna Maria Castelli, qui ai nostri microfoni, e dove anche lei è una grandissima estimatrice di Giorgio Gaber e una grandissima appassionata del teatro e canzone. E faccio la stessa domanda che ho fatto ad Anna Maria: esiste o può riemergere il teatro e canzone gaberiana, Luca? Io credo che purtroppo i tempi siano cambiati e, se vogliamo, l'attenzione del pubblico è calata. Il pubblico è diventato pigro, secondo me. Lo spirito critico è stato proprio addormentato, se vogliamo, dalle televisioni commerciali, dalla rincorsa, che devo dire, al facile guadagno, a un individualismo di massa che ha cancellato qualsiasi tipo di rapporto, di unione, di voglia di costruire insieme un futuro anche per il nostro paese, e lo vediamo drammaticamente questo ancora di più oggi, insomma. E quindi, dicevo, il pubblico è diventato un po' pigro, preferisce un semplice intrattenimento, e quindi i tempi sono cambiati in male. Certamente ci sono tantissimi artisti bravissimi che faticano a trovare spazio, proprio perché si preferisce nei teatri, negli spazi, chiaramente presentare cose più semplici, perché c'è anche la crisi e quindi bisogna guadagnare, piuttosto che lasciare spazio alla sperimentazione, alla ricerca e soprattutto, appunto, a un teatro canzone di cui oggi come oggi sicuramente avremo tantissimo bisogno. Ecco, allora Maurizio, io faccio una proposta, sì. Scusa, gli faccio una parentesi. Vai, vai. La propongo anche a te, Luca, lo farò anche ad Anna Maria Castelli. Magari una sera, per fare dare un po' vita a questo teatro canzone, faremo una telefonica assieme, Anna Maria Castelli, Luca Loizzi, e faremo una cosa dedicata a Giorgio Gaber. Ma volentierissimo, mi inviti a nozze, come sono. ditemi l'ora e il giorno e lo faremo. Tu hai detto una cosa molto bella, Luca, hai fatto un'analisi completa, la stessa analisi che ha fatto Anna Maria quando l'abbiamo intervistata. Purtroppo il teatro canzone è morto, se n'è andato quando è morto Gaber. E quello è il motivo. E giustamente tu hai detto, e c'è grande difficoltà, perché il pubblico non è più abituato, c'è grande difficoltà ad emergere, e c'è grande difficoltà a fare qualcosa di diverso, qualcosa di inedito, qualcosa di vero, di reale. Sì, no, sono pienamente d'accordo. E poi, appunto, E poi c'è la crisi, certo, ecco, che, c'è la crisi, esattamente, che allontana il pubblico da un certo spettacolo e lo dirige verso un altro tipo di spettacolo. Esatto, sì, qualcosa di più semplice. E, ma dall'altra parte, sotto certi aspetti non si può dare neanche certo. posto, perché, come dire, quando c'è insicurezza, c'è paura, c'è timore, si cerca sempre qualcosa che possa rappresentare un legame col passato, la sicurezza, eccetera, eccetera. Questo a tutti i livelli, ecco, senza adesso voler filosofeggiare. In, sono nell'ambito musicale, chiaramente. Sì. E poi tu, musicalmente, in questo disco hai attirato anche lo swing. Il finale del pezzo precedente era molto swingato, bello, deliziosamente swingato. Tu sei stato in Francia, vai spesso in Francia, e anche là lo swing è diventato ormai una musica che si sente spesso e volentieri in Francia. In Italia un po' meno in Italia. Sì, è vero, la tradizione francese è diversa. Voglio fare un esempio banalissimo. Sì. Cioè, in Francia è possibile, senza alcun problema, ascoltare in radio un brano in tre quarti, cioè parlo dal punto di vista della scrizione. Certo. E invece da noi, in vera, insomma, un certo modo di scrivere, di musicare i brani, sempre con gli stessi ritmi, sempre con le stesse basi. Ecco, la varietà, ecco, forse l'abbiamo un po' persa, ma questo parlo sempre, quando dico questo, parlo sempre a livello di musica, come posso dire, mainstream. Sì. Perché invece il nostro paese è ricchissimo di altre musiche. L'anno scorso ho avuto il piacere di ascoltare De Gregori con Sparagna, sì. e una tournée bellissima in cui rileggevano alcuni brani di De Gregori con l'orchestra folk, ed è stato uno spettacolo che a me è piaciuto tantissimo, il pubblico era entusiasta e che ha avuto un larghissimo seguito, dimostrazione del fatto che c'è un pubblico che eventualmente ascolterebbe, si interesserebbe ad altra musica. Però, ecco, forse, che devo dirti, le major, bisogna spingere le cose, e le major non lo vogliono fare, non lo so, forse non anche lo so. Lì c'è pigrizia, certo. C'è paura per la crisi, ecco, io purtroppo non sono un sociologo, quindi mi fermo a quel poco che riesco a capire da me, insomma. E sì, lo swing è una delle mie passioni, come ti dicevo, anche il jazz manouche, sì. Di Django Reinhardt, che ritorna per esempio in altri brani, certo. Cercando di tenere appunto un legame con il passato, ma anche con le sonorità, proiettando nel presente, però, chiaramente. Sì, sì, sì. Senti Luca, anni 70-80, anni 90-2000 e poi dal 2000 in poi, qual è stata l'evoluzione o l'involuzione della musica cantautoriale? Questa è una domanda cattiva, una domanda polemica come quella di prima. Mi vuoi far fare il professore? No, è che so un attimino, studiandoti, diciamo, un attimino, sì, ho cercato, sì, certo, di cogliere alcuni particolari e mi piace parlarne. No, certo, volentieri. No, dicevo, io credo che gli anni 2000... Negli anni 2000 possiamo ricordare grandissimi cantautori, anche come Samuele Bersani, che veramente si discostano dalla tradizione a cui pensiamo, dei Guccini, dei De Gregori, perché magari è un cantautore più intimista, ma che sapeva scrivere. E invece la tradizione nostra è monumentale, quella degli anni 60 con Luigi Tenco, o appunto degli anni 70 poi con De Gregori, con il primo Antonello Venditti, e insomma noi abbiamo tantissima storia musicale. Certamente cambiano i tempi, cambiano le mode, quindi cambia anche il modo di fare cantautorato. Negli anni 2000 abbiamo grandissimi nomi che potrei fare, come i Baustelle, che mi piacciono tantissimo, che sono proprio maturi anche nel modo di raccontare il nostro paese, le nostre giornate, o Dente, che è anche un cantautore che mi piace molto, Bruno Risasso. Cioè ci sono tantissimi artisti giovani o miei coetanei, insomma, che lavorano e bene, soltanto che, come dicevamo prima, purtroppo la visibilità è quasi assente, certo. E questo impedisce poi che il grande pubblico possa scoprire la musica altra, come ti dicevo. E certo, se dovessimo parlare di tematiche, è chiaro che noi cantautori di oggi forse scegliamo più la vena intimista, però è un po' dettato appunto dai tempi, se non ci vogliamo, un po' un tentativo di chiuderci noi stessi, perché la realtà si fa fatica a cambiarla, mentre negli anni 60 e nei 70 c'era questo grande slancio, questa grande, alcuni la chiamano illusione, io la chiamo questo grande sogno di poter cambiarla la realtà. E forse la società in generale si è un po' arresa, ha scelto di vivere un presente continuo senza ipotizzare un passato e dimenticare un po' il futuro, dimenticando il passato, e quindi questa consapevolezza di essere incapaci di costruire qualcosa di nuovo, di cambiare la realtà, ci fa ripiegare alcune volte su una vena più intimista, certo, più personale, più introspettiva, che a volte purtroppo può diventare anche troppo autoreferenziale, parlo anche nel mio caso, insomma, poi bisogna saper trovare un equilibrio. Certo, ecco. Guarda, per me il buco dal punto di vista del cantautoriale rimane gli anni 90, per me c'è anche una buona ripresa negli anni 2000 e soprattutto anche con il tuo album conferma che questo, il cantautorato è ancora vivo. Allora, Luca, io direi di far ascoltare un altro brano di questo tuo CD che poi commenteremo con Maurizio, perché è un altro pezzo da commentare, che si chiama Il Pazzo. Io non ho più nessuno che mi venga ad ascoltare quando voglia di parlare, sono solo, né una donna, né un amico, tutti i santi e Cristo in croce vi maledico. E non so più spiegare queste strane voci udite, questo mio cambiare così spesso umore. Mi hanno detto tu stai male e mi hanno chiuso in questo schifo di ospedale. Ma va bene sì, c'è il panorama e questi inverni tutti uguali io li ho visti poi passare in un baleno. Da 20 anni a 51, giusto il tempo di prendersi un caffè. Passione assurda per il teatro e la parola mi ha condannato. Come un pazzo mi hanno rinchiuso per la paura di sentirsi dire il vero. E non so più cos'è l'amore, quel profumo così dolce rimane sulla pelle anche per ore. Vorrei tanto poterti amare, ma mi hanno detto che anche questo mi fa male. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Ecco, questa canzone è veramente un po' particolare, perché ha anche un significato particolare questo testo, ma lascio a te la parola, Maurizio. Sì, musicalmente possiamo dire una cosa a Luca. Innanzitutto, vocalmente scandisci le parole alla Gaber, assolutamente, una cosa molto bella, positiva. E musicalmente è un brano eclettico, nel senso più ampio del termine. Passi dal cantautorato alla musica mitteleuropea, poi ritorni al cantautorato, poi svirgoli quasi sulla musica circense. Bellissimo, straordinariamente bello, straordinariamente innovativo, secondo me. Giustamente un critico ha scritto: musica cantautorale, ma diversa dalle solite cantautorali. Ha scritto un critico sul tuo disco. Ti ringrazio. Sì, in realtà questo è un pezzo vecchio. No, è un pezzo pazzo. No, mi stavo incantando. Pazzo nel senso positivo del termine, però. Sì. È un pezzo a cui tengo molto, perché in realtà è dedicato ad Antonin Artaud, il poeta francese che proprio per la sua diversità subì l'elettroshock addirittura, cioè fu chiuso in clinica. La sua è una storia molto triste, e proprio perché era una voce fuori dal coro all'inizio del Novecento, e come spesso capitava si pensava che i suoi deliri, chiamiamolo così, fossero follia. In realtà era un modo di vedere le cose in maniera diversa, e si pensò bene, chiaramente sono ironico, di curare questi suoi deliri con l'elettroshock. E chiaramente fu minato nel corpo e nella mente, morto a 51 anni, con dolori e problemi fisici e mentali, insomma, provocati, indotti sicuramente dal suo trattamento assurdo che praticavano i medici dell'epoca. Ed è uno dei poeti più difficili, in un certo qual modo, perché è anche fortemente anticlericale. Infatti nel testo in un certo senso cito il suo modo di rapportarsi alla religione, e molto forte. La sua poesia scuote, può anche infastidire, però in quegli anni, in particolare poi tra le due guerre, è stata veramente una voce che ha detto cose che altri non avevano il coraggio di dire o fare, insomma, e l'ha pagata cara. E dal punto di vista musicale, sì, c'è questa ricchezza di suoni. La musica balcanica, sono sempre stato un appassionato di Goran Bregovic, o di Darko Rundek, che è meno conosciuto ma è un bravissimo cantautore croato che ho avuto la fortuna di conoscere proprio a Parigi, insomma. È stato anche in Italia a suonare parecchi anni fa, e quindi anche quel mondo, ecco, è rientrato nel disco proprio per non lasciare fuori nulla, insomma, di quello che amo, ecco. C'è un parallelismo, se possiamo dire così, Luca, con una poetessa italiana che è morta non tanti anni fa. Anche lei ha subito degli elettroshock in manicomio, poi fortunatamente, grazie a Costanzo, è ritornata fuori, è ritornata a scrivere le sue poesie. La Merini, te li ricordi? Certo. E c'è un parallelismo, secondo me, su questo. No, chiaramente questo è molto più forte, però anche lei, quando poetava, faceva capire certe cose, è molto profonde e molto forti lo stesso. Sì, perché poi la follia è un modo, che poi la follia è, diciamo, un'espressione molto relativa. È chiaro, perché, sì. Ecco, io spesso quando parlo con i miei ragazzi e cerco di spiegare l'assurdo del quotidiano, faccio questa metafora, cioè immaginate un alieno che guardi gli uomini fermarsi per la strada dinanzi ad un semaforo. Camminano se è verde, dinanzi a una luce, e si fermano se è rosso, ecco. Oppure sempre questo alieno potrebbe guardarci, portare il cane a fare i servizi sulla strada, e poi noi siamo a pulirgli, ecco, i suoi servizi. Quindi chi sarebbe poi il padrone e il cane, l'animale da compagnia? Ecco, dipende sempre dal punto di vista, dalla prospettiva con cui si guardano le cose. Se l'alieno guardasse queste cose, potrebbe capire male, potrebbe equivocare. E quindi quello della follia, o presunta tale, è un punto di vista sulla realtà diverso dal nostro, ma non per questo, e non sempre assolutamente sbagliato. Sì, C'è anche un bel libro, mi fai venire in mente, di Paolo Coelho, che è dedicato alla follia, un bel romanzo che Veronica voleva morire, e parla proprio della... Sì. Hai avuto modo di leggerlo? No, lo ricordo, non l'ho letto in realtà, però lo ricordo, sì, ricordo questo romanzo di Coelho. È molto bello. Ascolta, il tuo CD è uscito a metà del 2012 circa. Sì, era il 30 maggio. Ecco, siamo ad agosto 2013. Di questo CD si può fare un bilancio, Luca? Beh, sì, un bilancio più che positivo. Noi siamo contentissimi. Io, Beppe, Nico, siamo soddisfatti molto di quello che degli obiettivi che siamo riusciti a raggiungere in questi anni e in questi mesi. Abbiamo avuto anche l'onore di essere selezionati dal premio Tenco, che è una delle rassegne fondamentali, insomma, per chi vuole fare musica cantautorale, e quindi insomma posso contare anche recensioni, però non voglio assolutamente adesso fare l'elenco, recensioni molto positive della critica, il che vuol dire che quella criticità di cui parlavo prima non è stato magari un limite, ma al contrario un punto di forza del nostro disco, perché il nostro timore all'inizio era anche quello che il pubblico, la critica, potessero magari storcere il naso dinanzi a un album che presentasse così tanti stili musicali differenti. Invece, come anche voi mi avete confermato questa sera, è stato un bel mix che ha funzionato, e di questo siamo felicissimi, insomma. Quindi essere eclettico non vuol dire pagare, ha pagato bene Luca, assolutamente bene, e quindi un vanto secondo me per il disco essere eclettico, e svariare, soprattutto svariare con intelligenza però, caro Luca, assolutamente. Mi hai sentito? Sì, ti okay. Ringrazio, ho detto, sono d'accordo, perché in realtà, come ti dicevo, noi stessi eravamo intimoriti, invece è stato positivo. Certo, diciamo. Certo. Noi stiamo facendo la nostra recensione, solo che la stiamo facendo in diretta, Luca. Ah, perfetto. Poi abbiamo la band qui, si sta preparando, Luca, e poi seguirà la tua intervista. C'è una band che fa prog e viene da Ferrara, quindi è tutto dal vivo, si canta, si suona, si parla, tutto dal vivo qua dentro. Bellissimo, c'è poco da fare. Bellissimo. Allora, cercherò di venirvi a trovare più presto. Ecco, allora. Quella è una cosa molto bella, Luca. Entriamo in una parentesi milanese e con Via Ripamonti, Luca, che dici? Volentieri, sono prontissimo. Una delle mie canzoni preferite, lo dico sempre, insomma. Ma come ti dicevo, questo album è un diario, quindi non posso che essere affezionato ad ognuna delle canzoni che lo compongono. Ecco, allora ascoltiamoci Via Ripamonti, poi ritorniamo in studio e la commentiamo. Voglio scrivere canzoni eleganti, perché la vita è un matrimonio senza amore, e ci tocca suonarcela da soli, finché fa freddo e non sappiamo dove andare. Ci consolano i sorrisi delle donne, anche se a volte li paghiamo troppo cari, e ci sembra di morire in un istante, per un abbraccio dato quasi senza cuore. Passiamo notti insonne ad aspettare, inventare nuove idee per il futuro, e anche se il tempo sembra essersi fermato, è un'illusione che dura sempre poco. Ci svegliamo sempre tardi la mattina, per non lasciare i nostri sogni sul cuscino, abbiamo scelto di vivere di notte, per non sentirci troppo soli tra la gente. Fratello si arrabatta come attore, ogni sera su di un palco sempre nuovo, ha scambiato la sua vita per un gioco, ma tutti gli altri non l'hanno mai capito. e a me tocca fare anche il professore per cercare di sbarcare il lunario e di vendere cultura e conoscenza per guadagnarci sopra solo 4 soldi. È vero che l'amore non esiste, che è soltanto un'invenzione dei poeti, non ci rimane che affidarci a del buon vino e cantare una canzone con gli amici. E 50, ancora pochi minuti, Maurizio in compagnia di Luca Loizzi. Allora Maurizio, questa via Ripamonti? Sì, un'autobiografia totale, caro Luca, di questa via Ripamonti, è una tua nostalgia milanese al 100%. Sì, effettivamente sì, e diciamo che ho cercato di condensare in 4 strofe un po' la storia di questi 10 anni a Milano, quando casa mia era un posto di mare, ma in tutti i sensi, nel senso che ospitavo amici che venivano da tutte le parti d'Italia, vivevo con mio fratello che lavora come attore, e anche quel verso lì non è inventato, ma ogni parola, come dicevi tu giustamente, è pienamente autobiografica, e quindi un po' le sensazioni, un po' i ricordi, un po' le emozioni, sono state riassunte in questi versi. Effettivamente anche quando la riascolto, come in questo momento adesso, mi vengono sempre 1000 immagini, 1000 ricordi piacevolissimi, ecco. Nonostante Milano sia una città grigia per il cielo, non lo è nei fatti, quindi non posso che ricordarla con piacere, ci torno con piacere, come questa sera insomma ti raccontavo, sono certo. Stato qui adesso, torno via, e quindi insomma è una canzone che racconta molto di me. Potete conoscere Luca Loizzi di questi ultimi anni, tanto ce n'è lì insomma. Una cosa fondamentale, cari ascoltatori, che ho notato in questi pezzi di Luca è la piacevole diversità che ogni pezzo ha. Nell'interno del pezzo non c'è una linea comune, cambia, si evolve e poi ritorna nella stessa tematica. Bello e positivo. Poi c'era un finale alla Japan, secondo me, alla finale, proprio bellutato, assolutamente. Sì, sì, sì. È stata una bella idea a cui abbiamo raggiunto dopo parecchio tempo. Mm-hmm. Insomma, perché questa è alchimia, possiamo dire questo, Luca, una specie di alchimia. Sì, sì, sì, in studio con Beppe, un produttore veramente con cui mi sono trovato subito d'accordo, perché avevamo comunanza di intenti, un sodale, come si diceva un tempo, insomma, che è riuscito a interpretare le mie visioni, i miei racconti, e vestirli, ecco, con gli abiti giusti. Ecco, visto che diamo spazio anche ai, tra virgolette, i tuoi giovani, Luca, tu insegni in un liceo, penso che sia una cosa meravigliosa rapportarsi con tanti giovani. Ecco, si identificano nella tua musica, nei tuoi testi, o quantomeno ne nasce un confronto? Come la vivono la tua musica? Ma diciamo che io, quando sono tornato qui in Puglia, ho cercato all'inizio di calare, come si suol dire, un velo di silenzio sulla mia seconda attività, ma loro sono così abili penso sia impossibile con quello che fai. Con Facebook, eccetera, neanche al secondo giorno, insomma, mi hanno chiesto: professore, ma lei è anche un cantautore? E io all'inizio riuscivo a risolvere con una semplice: no, è un mio cugino che mi assomiglia tantissimo. Poi per un po' non ha più retto, e insomma sono diventati i miei più affezionatissimi fan, li hanno seguito quando ho suonato, insomma, nelle località vicine, e mi scrivono sempre su Facebook, sanno a memoria le mie canzoni, e insomma sì, sono, è un rapporto bellissimo quello che ho con i ragazzi, perché non è soltanto un dare, ma anche un ricevere, perché ogni anno ti trovi con classi diverse, con persone diverse, io non parlo quasi mai di alunni, ma di persone diverse che hanno le loro storie, i loro drammi, le loro difficoltà, e quindi ti danno la possibilità di metterti in gioco continuamente e quindi scoprire anche lati diversi di te, e poi questo in un certo modo o nell'altro, insomma, ritorna nel mio modo di scrivere. Certo, quindi sicuramente si sentono coinvolti anche in questo tuo percorso, ecco, partecipano a questa tua vita musicale. Sì, spesso mi hanno chiesto, anche imbarazzando, il professore, ma quando dice questa frase, che cosa significa? Allora, guarda, non posso, ragazzi, così. Non possiamo fare esegesi di me in classe, altrimenti qui il mio egoismo raggiunge livelli, il mio egocentrismo raggiunge livelli impensabili, non possiamo farlo, però insomma, quindi sono sempre molto calorosi e affettuosi, questo sì. Senti Luca, mancano 5 minuti, diciamo, sei in qualche concerto in questi giorni? Sì, suoneremo presto a Trani e poi a Gravina, poi suoneremo a Molfetta, insomma ci sono un po' di date a partire dalla seconda metà di agosto. Per tutte le informazioni, le date eccetera, i miei contatti sono chiaramente su Facebook, Luca Loizzi Music, e a giorni, proprio questione di 24-48 ore, sarà anche online il mio sito ufficiale lucaloizzi.com. Bene, e per quanto riguarda il nord c'è previsto qualcosa? Probabilmente in inverno vedremo di, diciamo, avventurarci, ecco, nell'Italia del nord, però al momento non saprei darti date precise, ma ci terremo aggiornati, sarà documentato. Noi. Certo. Sì. Luca, noi ti lasciamo andare, finiamo quei 3-4 minuti prima, così ti lasciamo la libertà di poter prendere regolarmente il tuo aereo. Noi ti ringraziamo di questa tua disponibilità, ringraziamo la Tarock Records, la Proto Sound con Paolo Tocco, e ti auguriamo un buon ritorno. Tra l'altro, personalmente sarò anch'io in terra pugliese, in quel di Polignano, tra una settimana circa. Ah, benissimo. E quindi avrò modo di assaporare il profumo della Puglia. Luca, io voglio ringraziarvi, è stata una serata piacevolissima, e niente, insomma, spero di risentirci presto. Quando approderai al nord, come hai detto, chiaramente verrai anche, se avrai tempo e voglia e disponibilità, qualche passaggio in radio. Si fa sempre bene a tutti quanti, secondo me. Ecco, e ricordati che noi abbiamo messo in tasca quel piccolo progetto con Anna Maria Castelli. Ci sono, potete contare su di me. Allora noi chiudiamo con Milano, ok? Grazie, chiudiamo. Un salutone a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Blu Veneto. Grazie, grazie Luca. Ciao Luca, ciao, grazie, ciao. Milano, presto al mattino, barman nero mi scalda il cuore con un sorriso e un cappuccino, e alle 10 a Monte Napoleone vanno su le vetrine, aspettano le signorine che comprano un sogno e forse un maglione. A Corso Magenta sono le due, il mio amore ha una fame da bue, guarda perplessa un'insalata, ma a Milano si sa la dieta va rispettata. Meravigliose, scende la notte in periferia, dove ti chiudi in casa o scappi via, davanti ai televisori si spengono gli ultimi ardori. Milano che sogna il mare, o che so almeno un canale, Milano quasi come casa. Milano, Milano, Milano, Milano, che ti accorgi.